Questi vogliono farmi scendere, scendere. Dicono che mi devo arrendere, ma sopravvivo da un po' ed ogni motivo lo so. Prima o poi se lo verranno a prendere, ma me lo faccio andare bene, bene. Me lo faccio andare bene, frate. Me lo faccio andare bene, che mi sa che mi conviene. Da poco ho capito che le cose belle finiscono, che le verità assolute non esistono. Ma va bene così, perché senza tutta la merda che vivo non saprei che scrivere in un disco, no? Quella stronza l'ho salutata, ora ne aspetto una. Ciao. Che sia l'opposto e che colmi questa lacuna. Questa volta spero in un po' di fortuna, che sei contenti di un bacio e di una canna. Perché io non c'ho la luna, c'ho il sorriso per chi lo vuole vedere. Quando mi medico il cuore le sere, che vedo il sole cadere. Metto gli ultimi due cerotti e le bende, aspetto finché non si riprende. Ho capito che accontentarsi di quel che si ha è meglio di lamentarsi per ciò che manca. Voglio aiutare la gente che so che stanca, ma 23 anni non ho mai messo un soldo in banca. E va bene così. Questi vogliono farmi scendere, scendere. Dicono che mi devo arrendere, ma sopravvivo da un po' ed ogni motivo lo so. Prima o poi se lo verranno a prendere, ma me lo faccio andare bene, bene. Me lo faccio andare bene, frate. Me lo faccio andare bene, che mi sa che mi conviene. E non ho mai soldi da parte, a spenderli sono il migliore, ma guadagnarli un po' un principiante. Degli slalom ho scelto il gigante, ma di gare non ne vinci tante. Però la soddisfazione arriva dal tentativo. Voglio provare qualcosa per cui mi senta vivo. E potevo pure scriverlo, un pezzo alternativo più cattivo. Ma mi sembrava senza motivo. Alla certezza preferisco i dubbi, alla limpidezza fra preferisco le nubi. Piuttosto che non provare l'ebbrezza della caduta, la bellezza di quando ormai li hai persi tutti. E non puoi andare più giù perché il tuo è finito. Invece puoi andare più su perché il tuo è infinito. E questi qua ci puntano col dito, ma mi sa che ancora non hanno capito. E va bene così. Questi vogliono farmi scendere, scendere. Dicono che mi devo arrendere, ma sopravvivo da un po' ed ogni motivo lo so. Prima o poi se lo verranno a prendere, ma me lo faccio andare bene, bene. Me lo faccio andare bene, frate. Me lo faccio andare bene.